La presa di City Side, scena davvero. Avanti, avanti, bravi ragazzi, non fatelo lanciare le tassere, per Dio! Tenete giù le tecne, per Dio! E tenete giù queste le cose! Tenete! Fino a ferro, fatelo al passo di corsa! Bravo ragazzo, guarda che c'è pericolo, eh! Via, sotto! Guarda, sotto!